Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Allora, è lunedì. Questa meravigliosa inizio di settimana. Ah, hai fatto Belotti, subito eh? Arrabbiare i napoletani, me lo stavi raccontando con Forchielli. Ma che beh, ragazzi, ma bisogna. Teniamocelo stretto, Napoli. Il io Napoli, parlo in Napoli, sì. Ah, di calcio. No, beh, dai, sto scherzando. No, figuriamoci, un abbraccio a tutti quanti. Però non siate così cattivi. Forchielli fa delle battute. Sì. Lui non pensa affatto che a Napoli ci siano solo scippatori, pensa che ce ne siano tanti. Tutto lì. Vabbè, dai, comunque, vabbè, dopo per rincarare la dose, no, per smorzare no, le polemiche. No, no, no, no, no. Allora, 6 marzo, lunedì, inizio settimana, buon inizio settimana a tutti. Tra i santi, San Colette Baillet, vuole, perché siamo le Fiandre, quindi il problema è che potete pronunciarla però sia alla francese che diversamente, visto che, come sapete, le Fiandre è un terreno d'incontro tra culture renane da una parte e dall'altra della sponda del fiume. E famiglia povera, arrivata quando i genitori non se l'aspettavano più, per questo Colette, che sta per Nicoletto, perché pensate erano degli l'hanno chiesto San Nicola di Bari, e per questo è il suo nome. Ma insomma, però lei poi muoiono i genitori e diventa una rifondatrice delle Clarisse, quindi stiamo parlando delle francescane che avevano un po' dirazzato nel 400 nelle Fiandre, e lei è uno dei santi di riferimento per la tradizione cattolica delle Fiandre. Poi tanti santi di cui sappiamo pochi, ma dai nomi singolari, tipo Crodegando, Evagrio, Fridolino. Oggi nel 1899 la Bayer depositava il brevetto dell'aspirina, una di quelle cose che cambia la storia del mondo. Sicuramente. In effetti. E mentre nel 1975 si votava oggi in maniera definitiva quella che diventava la legge della maggiore età a 18 anni. Sembrano le cose scritte da sempre nella storia, ma in realtà sono delle conquiste recentissime. Sì. Caro Oscar, qui che weekend è stato? Tu sei contento per Belotti, anche se era qui. Sono contento per Belotti perché significa venderlo a un prezzo più elevato. Eh sì, vendere a un prezzo più elevato, e siccome noi tifosi torinisti pensiamo innanzitutto alla solidità del bilancio, che ci consente anno dopo anno di salire un pochino di più lontano dal pericolo retrocessione, noi siamo così, mica come voi milanisti, interisti. No, noi milanisti alle pensiamo, coppe. Anche noi pensiamo, insomma, più rigori para Donnarumma e più poi... L'importante non vendere la Juve, cosa che succederà però... esatto, lo sai come... non dirle queste cose, ma guarda, secondo me uno più non le è dice, che suggerisco le idee più hanno possibilità di realizzare questo. Sì, è quello che temo io talvolta. Però allora 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Qua ci siamo lasciati venerdì parlando della vicenda Consip, dell'inchiesta Consip. Ci riprendiamo lunedì, i giornali parlano sempre dell'inchiesta Consip, sì, sulla quale Oscar mi diceva prima si è fatto un'idea, insomma adesso vediamo, un'idea, perché poi dopo sono gli inquirenti, sì, che devono, sì, no, cercare di capire. Mancherebbe. Però la sensazione è, io quando ieri ho letto l'avvocato di Romeo che ha fatto questa dichiarazione, ma il mio assistito è uno che se vede un prelato passeggiare per la campagna va in giro a raccontare di aver incontrato il Papa, cioè come se fosse un po' che esagera, che no, certo, da una parte è ovvio che l'avvocato, no? L'avvocato difensore, chiaro. Dall'altra, insomma, vedremo, fino a questo momento, al di là di una mole immensa di chiacchiere, oggi ci sono paginate intere di registrazioni di quello che si dicevano Bocchino e Romeo, cioè il consigliere, dobbiamo vedere, cioè in ogni regione una riflessione su le gare, chi, Fratelli Pittella in Basilicata invece, sì, di qua di là. Però, brigavano però detto tutto questo, per il momento insomma, soldi e cose tutto da vedere, cioè molte chiacchiere, simboli, pizzini. Io per esempio il pizzino pubblicato dal Foglio con l'articolo di Luciano Capone dice: ma voi lì leggete il nome del parlamentare PD che viene trascritto nelle carte? effettivamente sì. A me sembra di no, però sono tutte cose da vedere, diciamo, insomma. Che c'erano delle persone che sicuramente brigavano per cercare di raggiungere qualcuno. Bisogna dimostrare poi che se si è arrivato oggi, per esempio, c'è, hai visto su Repubblica pagina 7 c'è questo. E altre cose che mi lasciano perplesse: l'ex procuratore di Napoli, mandato in pensione dopo l'avvio dell'inchiesta. Sì, lui fa notare che due o tre giorni dopo aver iniziato l'inchiesta è stato mandato in pensione, non è arrivata per lui la proroga come aveva chiesto. Però che non sia arrivata la proroga deriva da un provvedimento di ordine generale, è da quello che sappiamo. È quello per cui i magistrati si sono e quindi capisci. E allora io vedo questa intervista, non è che c'è una questione ad personam che dice ecco, allora dall'alto. Non lo dice neanche lui, però fa notare coincidenze. Ma ti pare che la misura generale, che era l'ennesima, e il no all'ennesima proroga per l'età della pensione protratta per i magistrati, mi sembra un po' forzato. Adesso magari mi sbaglio, ma però no, però vogliamo parlare di questo, anche perché sempre nello stesso articolo di Repubblica, guarda qui a pagina 6, si racconta Romeo e Bocchino, l'ex parlamentare e suo consulente, coltivavano un altro obiettivo. L'intenzione era quella di agganciare niente meno che il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, l'autorità nazionale anticorruzione. Io posso dire solo una cosa, però: di tutti gli articoli che ci tocca scirocciarci, il migliore fino a questo momento è stato Sabino Cassese ieri sul Corriere della Sera, che ha scritto un fondo con l'equilibrio, lo stile, l'eleganza, l'educazione dell'ex giudice della Corte Costituzionale, nel quale, rivolgendosi all'ex amministratore delegato all'attuale della Consip, gli dice quello che ha detto: io non sono monaco tibetano, continuo a vedere gente anche se non ho accettato mai soldi. La tesi era: ci scusi caro amministratore delegato, noi ogni tanto vorremmo un monaco tibetano dove si maneggiano decine di miliardi pubblici. L'ho trovato di un'eleganza, sarebbe straordinario, ecco, perché andava al centro della questione, come dire, non è che uno può dire sa, vedo tutti, parlo con tutti, insomma. No, tra l'altro noi abbiamo reinvitato colui che è un commissario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha scritto anche un libro, È normale, lo fanno tutti, e quando si parla di questo l'abbiamo già presentato, purtroppo si parla non di cose belle, quello che fanno tutti, cioè di cercare di corrompere. È Michele Corradino che è con noi, ben ritrovato dottor Corradino, e grazie di essere buongiorno qui. A voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora vabbè, e partiamo da questa notizia, lei ci dirà, insomma oggi sui giornali però raccontano anche il tentativo di agganciare niente meno che i vertici dell'ANAC. Sì. Lei ha qualcosa da dichiarare, diciamolo subito. Era un agganciando? No, assolutamente no, non da dichiarare, ma nel senso che probabilmente molti ci provano, ma evidentemente nessuno ci riesce, come emerge anche dalle cronache. Però la cosa interessante, perché quindi noi l'hanno segnalato fin dall'inizio di questa storia, è che l'ANAC in realtà era già occupata istituzionalmente, aveva preso in esame le gare della Consip formulando delle critiche dicendo per la piega che stanno prendendo, senza ipotizzare fatti concreti, ma per la piega che sta prendendo l'ordine di grandezza delle gare eccetera eccetera, è inevitabile che così si creino delle conseguenze negative. Questo a mio giudizio è uno dei motivi per cui quando la gente dice l'ANAC è inutile, insomma, però come vedete qualcosa l'aveva detto anche prima, o no? Sì, è proprio così, ma già per esempio anche nella relazione che ha fatto il presidente dell'ANAC Cantone al Parlamento, è proprio già lì lo scorso anno era stato individuato come uno dei problemi della centralizzazione il fatto che questi lotti si stavano sempre più ampliando, e lì veniva detto che questo naturalmente poteva determinare dei problemi anche sulla piccola e media impresa, non soltanto, ma ci sono stati anche dei rilievi con riguardo agli aspetti organizzativi della Consip. Probabilmente il fatto è che queste gare così giganti, queste gare così immense, 2,7 miliardi, possono creare dei problemi, creano dei problemi anzitutto all'economia, perché abbiamo una gara esageratamente grande, vincono soltanto pochi soggetti che hanno la capacità finanziaria, operativa, tecnica di offrire anche le garanzie per partecipare. E le garanzie. Quindi significa che poi alla fine vincono più o meno, non dico sempre gli stessi, ma un numero ristrettissimo. Ecco. Un numero ristretto di soggetti che hanno la capacità di andare in banca e chiedere una fiduzione di questo genere, una fiduzione miliardaria. Io credo che questo naturalmente finisca con il creare un meccanismo anomalo. Da un punto di vista economico, forse non sono più titolato per dirlo, ma sicuramente io credo che si crei una situazione in cui i grandi possono partecipare, la piccola e media impresa non ce la fa a partecipare, rischia di essere strozzata attraverso il sistema dei subappalti. ma anche da un punto di vista, diciamo così, operativo. Io credo che una gara così grande finisca inevitabilmente con il generare gli appetiti criminali. È evidente che si cerca di arrivare a questa gara così immensa. 2,7 miliardi ingolosiscono. Quindi lei sarebbe per una soluzione di spezzettare, no? Invece di fare megalotti, di fare piccole gare o più piccole di 2,7 miliardi. Guarda, io più volte ho detto questa cosa, cioè che secondo me sarebbe più opportuna una riperimetrazione dei lotti. Questo l'ha detto anche l'ANAC in più occasioni, una riperimetrazione dei lotti che sia in grado di tenere conto della situazione economica. C'è stata da parte dell'ANAC un'analisi economica su questa situazione. Esatto. Anche perché ci sono nella letteratura scientifica, cioè dell'economia pubblica dedicata alla branca del procurement, cioè degli acquisti, dei papers, delle ricerche fine anni 2000 eccetera eccetera, c'è una famosissima del 2009 proprio che dà forza alle vostre considerazioni rispetto al gigantismo, tant'è che nell'esperienza di altri paesi più avanti di noi sui meccanismi di acquisizione centralizzata per la trasparenza avevano tarato questo non su enormi gare nazionali. Sì, è proprio così, cioè gare più ristrette, più piccole, perché si è visto anche in questo rapporto che ha pubblicato Consip che con riferimento ad alcuni prodotti e con i prodotti in particolare delle forniture noi troviamo effettivamente un risparmio, però questi megalotti possono determinare questo problema e forse ci potrebbe essere anche un problema di ripensamento del sistema, perché c'è anche questo interessante studio che ha fatto Piga da qualche giorno, è stato pubblicato, come si vede come negli altri paesi non ci sia soltanto un problema di creazione di lotti molto grandi, ma anche proprio un sistema diverso di centralizzazione delle informazioni. Sì. Mi era piaciuto molto questo riferimento, che credo possa essere anche un modo di ripensare al nostro sistema. Questo sì. Tra l'altro lei... Io la invito solo a scandire bene, perché parla di riperimetrazione dei lotti, non di... No, sì, esatto, abbiamo parlato più volte di lotti, no, ma in questi giorni guardi, dei lotti di gara, guardi Corradino, per lei, perché che sono giorni che noi siamo, perché si parla di lotti di gara, ma ovviamente il ministro dello sport è Luca Lotti, è inevitabile che poi le persone equivochino. Mi riferivo ai lotti di gara, ovviamente. Un altro punto fondamentale, visto che si parla di appalti, si parla molto spesso anche in queste inchieste di pressioni, di tentativi di arrivare alle persone che poi decidono, lei per questo dice forse dobbiamo veramente prendere in considerazione questa idea che c'è da decenni e poi non si fa, di regolamentare tutti quelli che sono il mestiere del lobbying di coloro che legittimamente portano avanti degli interessi di imprese, aziende, ma lo si fa adesso in maniera un po' così grigia, in maniera un po' strana, molto strana. Io credo che noi se vivessimo nel migliore dei mondi avremmo una pubblica amministrazione che è capace di prendere le scelte in maniera completamente autonoma, ma è evidente che la pubblica amministrazione, come qualsiasi altro soggetto che deve comprare qualcosa, deve avere la necessità di comprendere che cosa comprare, informarsi. Questi rapporti tra imprenditori e amministrazione io credo che esistano e allora proprio perché esistono vanno regolamentati, va anzitutto garantita una trasparenza di questi rapporti. I rapporti vanno ricostruiti, devono essere tracciabili. Noi cittadini, noi contribuenti, a mio parere, dobbiamo sapere con chi hanno parlato i politici, con chi hanno parlato gli amministratori prima di avere preso una decisione, in maniera tale da poi poter decidere noi che cosa pensare di loro. E poi secondo me bisogna anche garantire una sorta di ascensore sociale delle imprese, perché le imprese grandi riescono ad entrare nei ministeri, io dico senza bussare, perché hanno le loro entrature, hanno la capacità di fare sentire la loro voce, le loro ragioni e presentare legittimamente i loro prodotti, le loro idee. I piccoli non ce l'hanno questa possibilità. Sì. E magari devono poi rivolgersi ai faccendieri, ai facilitatori. Ecco, io credo che noi dovremmo proprio sancire il diritto di interloquire in maniera trasparente con la pubblica amministrazione. Io sono molto d'accordo con lei, perché è un problema oltre che di trasparenza e di rispetto del codice penale e del miglior prezzo di aggiudicazione per rispetto al contribuente e di efficienza del bilancio pubblico, ma è una questione anche di abbattimento di muri all'ingresso della concorrenza. Proprio così, perché le modalità di queste gare significano inevitabilmente in ogni tipo di settore, qui stiamo parlando di facility management, cioè servizi alla gestione di patrimonio immobiliare, cose di questo genere qua, lavorando anche spesso con chi è piccolo e si ha tentato di mettersi insieme in questa filiera, il problema è esattamente quello. Non devo ricordare a lei, per esempio, che Manutencoop si è beccato una sanzione pesante proprio perché gigante del settore alla testa del settore cooperativo, secondo le autorità, e finiva anche lei per truccare le gare. Quindi è una conferma a quello che lei sta dicendo. Vogliamo sentire anche un'ascoltatrice, Sara da Prato, che ci ha chiamato. Buongiorno Sara. Buongiorno, buongiorno. Io sono un ingegnere che lavora in un ente pubblico e si interessa di gare pubbliche dalla mattina alla sera. Ci ritroviamo, volevo segnalare il fatto, anche dal punto di vista dell'ente pubblico, e le gare Consip per noi molte volte sono gambizzanti, cioè nel senso che molte volte effettivamente l'offerta che ci viene data da queste gare Consip non sono così economicamente vantaggiose, neanche per l'ente, perché proprio come diceva prima il dottor Giannino, le piccole e medie imprese vengono completamente tagliate fuori, oppure vengono dirottate dentro a Consip a condizioni per loro... Ma tagliate fuori perché? Perché come ci diceva prima Corradino, l'importo dei lotti di gara sono molto ampi. Sono troppo, le medie e piccole imprese sono completamente fuori. Noi ci ritroviamo sempre i soliti personaggi dall'altra parte. Vediamo questi amministratori delegati che cambiano la giacchetta a seconda di chi ha vinto la gara. Cioè non ci ritroviamo, e poi anche l'offerta che ci viene data sono dei contenitori vuoti, nel senso che all'atto pratico noi ci ritroviamo a litigare, poi avere sempre dei contenziosi con queste gare, cioè, molte volte. La sensazione, mi sembra di dire, non so se lo dico io, faccio il passo, che siano gare anche pilotate, Sara? Però le condizioni di gara sono... La concorrenza è un livello molto alto, no? Ma molto alto tra pochi, perché pochi riescono a avere quel livello. E quindi in realtà, questa è una mia opinione personale, la concorrenza che viene garantita dal codice, che deve essere garantita dal codice degli appalti, sì, mi sto domandando, ma è reale? Non sarà, appunto, io dico non saranno pilotate, però già il fatto che, come dire, escludono secondo quello che ci ha detto Sara, tante imprese, in qualche modo sono escludenti, vogliamo chiamarle, favoriscono alcuni ed escludono altri. La questione, come sempre, è tentare di non buttare via il bambino con l'acqua. Cioè, voglio dire, noi alla Consip siamo arrivati perché l'accentramento, il coordinamento centrale, che non significa l'accentramento in grandi lotti, il coordinamento centrale, che si può fare anche con scambio di informazioni, come ricordava prima Corradino, era utile per abbattere i costi del procurement a fronte di una forbice troppo elevata di quello che pagava il pubblico per prestazioni analoghe, per acquisizioni analoghe all'interno dell'Italia. È vero che i costi possono essere diversi, perché i costi locali sono diversi per trasporti, logistica, eccetera, eccetera. Non c'è un costo standard nazionale, però erano troppo diversi. Allora il problema è non buttare a mare i risparmi, ma non farlo nemmeno con gabbie per pochi eletti, perché i miliardi e miliardi significano questo. Lo so che uno dice facile da criticare, facilissimo, però qualunque cosa avvenga della parte politica, della parte penale di questa inchiesta, la parte che interessa per il pubblico e per il contribuente è già evidente che è questa, no Corradino? Sì, è proprio così. Naturalmente ci sono degli aspetti positivi. Noi non dobbiamo dimenticare che veniamo da una fase di polverizzazione delle stazioni appaltanti. Abbiamo 32.000 stazioni appaltanti nel nostro paese, e questo naturalmente non è possibile. C'è una difficoltà di controllo, una difficoltà di ottenere prezzi. L'idea della centralizzazione è un'idea corretta. Io credo che sia il problema della, al solito, perimetrazione, lo dico bene, dei lotti. Cioè, lotti troppo grandi fanno sì che ci sia una concorrenza minore e un appetito criminale troppo forte. Una più corretta ridefinizione di quello che l'amministrazione va a comprare con la centralizzazione è una grande idea. Noi possiamo controllare meglio un soggetto piuttosto che 32.000. Questo sì. Allora, vediamo se c'è Vincenzo anche da Milano che ha una domanda, se è rapido. Grazie Vincenzo. Sì, buongiorno. Beh, in realtà gli ultimi due commenti di Giannino del vostro ospite hanno risposto, perché sì, il mio dubbio era legato proprio a questo concetto. Cioè, Bombarisoni da un secolo parla di accentramento, di riduzione delle centrali appaltanti. Una volta che sembra che cominciamo ad arrivarci, nasce il problema delle gare d'appalto troppo grandi. Però correttamente Giannino e Corradino mi hanno dato già la risposta. Grazie. Va bene. Comunque, grazie, per essere chiari, non è il programma di Emiliano, l'intervento di Corradino, riduzione dei lotti. No, tutto dei attaccato, lotti. Non dei i lotti. No, ringraziamo Michele Corradino, ricordiamo anche il libro edito da Chiare Lettere, È normale, lo fanno tutti, per affrontare anche il tema della corruzione dalla visione di uno che insomma è commissario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. E ringraziamo per quello che fa. attenzione ai suoi colleghi. Grazie, ovviamente, buona giornata. Dopo la pubblicità avremo ospite Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Ti aveva incuriosito questa posizione su questa inchiesta? Però vedi che ci avevamo beccato fin dall'inizio, da quel titolo del giornale. Fine settimana ha confermato che Forza Italia, insomma, era pronta al salvataggio. È un casino. O cambiamo il cognome al ministro dello sport, o ce lo giochiamo al lotto. No, o cambiamo la lotta dei lotti giocata al lotto. Va bene. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Ci chiama Giancarlo da Pescara. Buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno dottor Giannino. A parte che sono juventino e quando parlate di sport non sono d'accordo con voi, ma per vabbè. Il resto oggi parliamo di colpi. Ma abbia pietà per noi che strisciamo nel fango e tentiamo di vivere. Venerdì c'è Juve Milan, mettetevi la mano sul cuore. Cioè, capisco Alessandro quando dice pietà, così. Abbiate pietà, si dovrà soffrire comunque in qualche modo prima o poi. Ma a soffrire siamo sempre noi, però c'è questo piccolo particolare. E io come giuventino mi auguro che continui così. Lo sappiamo. Le diamo la parola allo stesso, come vede. Prego, sì, allora, grazie tante. No, io lavoro con la pubblica amministrazione da sempre, nel settore degli arredi. Le posso dire che Consip, come detto il dottor Giannino, è nato con un grande scopo, che aveva e ha tanti motivi per vivere, ma Consip ha messo nei guai l'economia italiana, soprattutto negli ultimi anni col MEPA, perché qui non stanno risparmiando dei soldi. Allora, Consip fa delle gare troppo grandi, l'avete già detto, sì, per cui praticamente qui la partecipazione di solito è possibile solo a grandi soggetti, gli altri restano a guardare, se sono fortunati prendono le briciole da quelli che hanno vinto le gare. Poi hanno creato il MEPA, che è diventato un disastro, perché non stiamo risparmiando dei soldi. Guardi, dottor Giannino, glielo posso garantire. La verità è che stanno pagando meno e basta. Ma cosa ci arriva all'interno dei nostri uffici, delle nostre scuole? Il controllo non è praticamente garantito. Per cui ormai ci stiamo avvilendo, abbassando i prezzi sempre di più e poi dicendo, vabbè, al limite quella cosa lì doveva essere alta 2 metri, la portiamo a 1,90, tanto nessuno guarda. Perché cioè si abbassa la qualità, a scapito della qualità. La qualità è stata distrutta e chiaramente certo. Cosa succede? Succede che le ditte italiane... Allora, si immagini che il MEPA, al MEPA oggi ci si registra con una autodichiarazione, dicendo sono tizio e Caio, faccio questo. E il MEPA ti autorizza lei ha detto 50 volte cos'è il MEPA, però lo spieghi per gli ascoltatori. Il MEPA è il mercato elettronico e la pubblica amministrazione. Per cui io domani mattina decido di voler vendere il prosciutto alle scuole e mi registro sul MEPA dicendo che ho una fabbrica di prosciutto o sono un rivenditore di prosciutti. Dopodiché, se arriva l'asilo nido di Milano, che vede che il mio prosciutto costa 2,80 euro all'Expo anziché 2,81 euro, si può ordinare i prosciutti. Però poi il controllo di che cosa arriva dentro le scuole dovrebbe farlo l'amministrazione. Certo, Giancarlo, no, ma lei ha posto un problema, cioè a scapito della qualità. Il problema posto, Giancarlo, è un problema di fronte al quale la Consip reagisce con documenti alti così. Questo lo dico per correttezza di informazione, non per smentire Giancarlo, perché... La Consip dice il nostro compito non è la certificazione integrale, il nostro compito è trasparenza nell'ambito della simmetria delle informazioni per la formazione dei prezzi. Poi cosa diversa sono i lotti di gara, i tipi di gara, e qui il problema oramai non lo negano neanche loro. Qui per esempio stiamo parlando di una gara bandita fine 2013, nel 2014 siamo al 2017 e non è una gara che non è stata aggiudicata, per capirci, quella su cui si incardina l'inchiesta. Il nostro ascoltatore pone un ulteriore problema, è quello sugli abbattimenti di costo delle gare a fronte della qualità. Comunque, come vedete, questa idea ci fa molto riflettere su un bel po' di argomenti, non solo su l'improprietà della politica. Poi c'è l'aspetto politico, per l'appunto. Alessandro Sallusti, buongiorno, ciao direttore buongiorno. Del giornale. L'aspetto politico è questo. Adesso, finora abbiamo parlato di lotti dal punto di vista di lotti di gara, adesso dovremmo parlare di lotti, proprio lotti. Il ministro dello sport. Perché Forza Italia dovrebbe, come farà, sostenere lotti? È un po' quello che scrivete anche sul giornale. Perché? No, è posta male la domanda. Io non credo che Forza Italia sostenga Lotti, così come il giornale non sostiene il governo presente o quello coinvolto in questa vicenda, cioè il governo Renzi. È ovvio che è un riflesso indiretto. Forza Italia, come noi, difendiamo il garantismo. Qui, in questa vicenda, se togliamo una tangente dichiarata presa da Gasparri, che non è il famoso politico, non si è ancora trovato un soldo che sia spostato. Ora, che ci siano in giro per il paese dei faccendieri che facciano pressioni su Tizio o su Caio, su un ministro o sui parenti, è un dato di fatto e, per carità, non è una bella cosa, ma al momento non è stato accertato nessun al momento caso. Vedi molto fumo e poco arrosto, cioè, come dire, il trasversalismo affaristico c'è nella politica della pubblica amministrazione, però dall'altra parte giustizialismo di Vorrei sui figli, in altre parole. Beh, insomma, noi abbiamo difeso, voglio dire, il governo Renzi nasce con al suo interno, il primo e unico governo Renzi, nasce con al suo interno cinque ministri indagati, tra ministri e sottosegretari, e anche la sinistra gli votò la fiducia, perché essere indagati non è sintomo di nulla, a meno che uno non sia indagato per pedofilia, cioè per reati moralmente... abietti. Allora quei cinque lì andavano bene perché politicamente ti interessava andare al governo, e adesso un signore che forse ha mandato un messaggio a Emiliano, direttore, lo sai che la risposta a questa tua considerazione è sì, da giornalisti lo sappiamo che è proprio così, cioè Josefa idem, con tutto rispetto, per evocare una mandata a casa come se fosse stata il ministro Guidi era politicamente irrilevante, quindi a casa subito urlando, e altri, per così dire, hanno un peso politico diverso, tutto qua, la politica. Beh, però, poi per esempio questo, scusate, io credo che gli italiani non siano scioccati o indignati del fatto che la Raggi resta sindaca di Roma nonostante sia stata raggiunta da un avviso di garanzia. Vedo qual è la differenza tra la Raggi e l'Otto. No, che ci sia però una doppia misura, effettivamente. Io cito anche Federica Guidi, per esempio, anche lei ha perso il posto da ministro e poi alla fine addirittura non si è rivelato nulla, cioè c'è un po' un due pesi due misure in base alla situazione politica. Giustizialista c'è sempre stato su questo, però lo riscopriamo ogni volta, non lo dico per questioni politiche, diciamola tutta. Oscar Giannino, caro direttore, da venerdì dice che il titolo di venerdì, che adesso non ricordo io alla l'ho perfezione, detto subito venerdì, sì, l'ha detto in onda, dice guarda qua il titolo del giornale, sembra un titolo che in qualche modo fa capire che ci siano delle briciole di Nazareno ancora, Nazareno ancora, politica, ancora. In un quotidiano il giornale, adesso abbiamo capisco, il direttore, però nel titolo c'è dire una logica. Ma io capisco cosa intende dire Giannino. Il fatto è che noi abbiamo attaccato, ci sono decine se non centinaia di titoli, il governo Renzi, Lotti, il papà di Renzi, quando Renzi era l'uomo più potente d'Italia, che con uno schioccare di dita poteva ottenere quello che voleva, quando tutti gli altri invece nulla dicevano. Adesso che Renzi è in difficoltà, come dire, a noi sparare sulla Croce Rossa non interessa. Non è che difendiamo Renzi, però siccome chi sta attaccando Renzi è più ipocrita e paraculo di Renzi, lo diciamo. No, poi lo volete attaccare su questioni concrete, e qui di concretezza al momento ne vedi poco. Beh, interessante anche questa cosa. Cioè, al momento non vedi però grandi... come dicevamo all'inizio trasmissione, anche noi non la vediamo. Ora ci sono sicuramente persone che brigano per cercare di ottenere dei favori, bisogna capire se è questi questo favori che immagino che sia sempre accaduto e sempre accadrà, che qualcuno tenti di corrompere qualcuno è un fatto ineluttabile. Il problema è se qualcuno si fa corrompere e se ci sono evidenze di questo. Al momento, se togliamo un funzionario della Consip che è finito in galera, infatti, o comunque indagato, che ha ammesso di aver preso, ci sono evidenze nette che ha preso quasi 100.000 euro, su tutti gli altri nomi che appaiono in questa inchiesta non c'è per il momento un euro che passa dalla parte rara. E questo è un dato di fatto. Ma politicamente che succede? Quindi come questione di opportunità, no, posso fare una domanda, però come questione di opportunità, Sallusti, il padre di Renzi, vado proprio a nocciolo della questione dal punto di vista dell'opportunità, per esempio ieri a me è piaciuto tantissimo il professor Cassè sul Corriere, che in questo caso si rivolgeva all'amministratore delegato di Consip, che aveva detto: io non posso fare monaco tibetano. Nell'amministratore delegato di Consip ai magistrati sta dicendo molto di ciò che piace sentire ai magistrati, cioè facevano molte pressioni, Tizio, Caio, Semprone, eccetera. Poi di sé dice: naturalmente io facevo sempre finta di niente, però ascoltavo tutti perché non sono un monaco tibetano. E il professor Cassi gli dice: beh, magari per quello che devi gestire, essere un po' più monaco tibetano, magari. Invece, se ci spostiamo su il padre di Renzi, secondo te, come opportunità, c'è qualche cosa da dire sul comportamento di uno che comunque si dava da fare, oppure secondo te no? Sì, no, assolutamente. C'è da dire che se il padre di Renzi fosse andato a caccia o ai giardinetti con i nipoti, avrebbe fatto un bene al figlio e probabilmente anche al paese. Dopodiché il papà di Renzi non ha nessuna carica. Da dove lo facciamo dimettere il padre di Renzi? No, dimettere no, no, dimettere per no. Questo comportamento discutibile, un po' strano, a tratti addirittura strano, nel senso che non si capisce bene che diavolo stia facendo sto uomo, ma non possiamo farlo dimettere da papà di Renzi, cioè non è che può dire no, da domani non è più, ti è scappato un sorriso perché, senza forzarti, ma ci sono degli aspetti del papà di Renzi che fanno pensare un po' a un film Amici Miei, a qualcosa di cronache di provincia proiettate su, no, non c'è anche un po' di questo, da quello che sappiamo, con grande rispetto. Sì, sì, no, ma ecco, questo cerchio anche magico è veramente ha dei tratti addirittura da Amici Miei, insomma, veramente da cronache di provincia toscana, peraltro, che è una provincia molto, molto particolare. E quindi o c'è un'evidenza che ha commesso un reato e allora lo si arresta, o se no sta lì e speriamo che vada ai giardinetti invece che parlare con la gente e far casino, ma... Tutto questo non può oggettivamente essere imputato a Renzi o chi per lui, c'è quest'uomo che è bizzarro. Non è bizzarro, non... è bizzarro, è un bell'uomo bizzarro, Tiziano. Comunque. No, ma io mi interrogo anch'io, che cosa vuoi fare? No, effettivamente è una domanda che uno dice, boh, ma che veste questo padre? Vabbè, però... In ogni caso, dai, dobbiamo fermarci ringraziando Alessandro Sallusti. Tra le tante Sallusti. Bellezze della politica italiana c'è che la destra parla così per il garantismo, mentre all'interno del PD volano cannonate. Quindi, vabbè. Sì, sì, ma sì, per il congresso, staremo a vedere. Anche altra questione, anche oggi, paginate di mamma quello mia, che risponde a quello, quello tizio, domani tizio, risponderà a quell'altro. Si chiamassero senza... Vabbè, dai, questa è la mia particolare e personale opinione. Ci fermiamo, a domani! Ciao, ciao!